Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. È peer-to-peer lending la parola chiave con cui questa sera chiuderemo lo speciale Smart City dedicato alla financial technology o fintech, questa nuova industria che sta nascendo come effetto della propagazione delle nuove tecnologie nel campo dei servizi finanziari e assicurativi. Il peer-to-peer lending o prestito peer-to-peer nasce per disintermediare il prestito personale attraverso delle piattaforme internet che in buona sostanza consentono a privati cittadini, ma anche ad altri soggetti, come vedremo, di prestarsi soldi a vicenda senza avvalersi di un istituto bancario. Per spiegarci un po' meglio di cosa si tratta è tornata a trovarci Valeria Portale, che è direttrice dell'Osservatorio Mobile Payment and Commerce del Politecnico di Milano. Buonasera Portale. Buonasera a lei, buonasera a tutti. D'altra parte parliamo di portali, chi meglio di lei? Senta, allora, come funzionano queste piattaforme di peer-to-peer lending? Allora, sostanzialmente queste piattaforme di peer-to-peer lending permettono di connettere dei privati che possono erogare un credito ad altri privati. Tutto questo lo possono fare online attraverso un'intermediazione di una piattaforma direttamente da internet, quindi non attraverso una banca, ma gli utenti possono decidere di prestare dei soldi ad altri utenti semplicemente andando su un sito e guardando, perché questi, chi richiede i soldi è comunque stato selezionato come utente meritevole di avere. Quindi queste piattaforme fanno la verifica, per esempio, di solvibilità di un creditore, si va esattamente come fanno le banche, queste cose le guardano, no? Sì, sicuramente guardano anche tutti questi elementi, altrimenti non sarebbe possibile accedere a queste piattaforme. Tuttavia, queste piattaforme permettono comunque di poter accedere al credito anche utenti che magari dalla banca non otterrebbero comunque dei finanziamenti, anche perché molto spesso chi cerca finanziamenti attraverso queste piattaforme cerca dei finanziamenti che sono tendenzialmente non elevatissimi. Piccoli, quindi i costi fissi, diciamo, di gestione di un prestito per la banca sono troppo elevati per rendere quella fetta di mercato interessante. Fanno anche una qualche riduzione del rischio, cioè io posso, lei magari presta dei soldi a me, ma io sono un farabutto, non glieli ridò indietro, lei li perde tutti. Mi sembra che queste piattaforme qualcosa per evitare questo però lo facciano. Sì, ci sono tutte delle garanzie che queste piattaforme cercano di mettere in piedi proprio per evitare che ci siano dei truffatori tra coloro che vengono attivati. Detto ciò, però, comunque sono prestiti a rischio. Sì, chi presta questi soldi lo fa con un minimo di rischio. Parleremo di questo tema del rischio perché ce l'hanno in capo in qualche modo i creditori, ma questo vuol dire che non ce l'ha in capo la piattaforma. Ecco, per capirsi, uno dei meccanismi che vengono praticati per ridurre questo rischio, in realtà i soldi che uno investe in queste piattaforme non vengono mai prestati a un solo soggetto, ma in genere vengono sparpagliate su un gran numero di soggetti proprio per ridurre il rischio di insolvenza. Privati cittadini, dicevamo, e piccole cifre, c'è solo questo? No, in realtà iniziano anche le piccole e medie imprese a utilizzare questi sistemi proprio per poter accedere a credito che, diciamo, nel mondo finanziario tradizionale attraverso le banche è sempre più difficile poter accedere. Quindi esistono queste piattaforme non solo tra privati ma anche per le imprese stesse. Se dobbiamo citare qualche nome per capire quali sono queste piattaforme, tra privati forse le più famose sono Smartica e Prestiamoci, mentre per prestiti alle imprese c'è Borsa del Credito. Ecco, dicevamo che in questi sistemi, diciamo, il rischio resta in capo a chi deposita, tra virgolette, i soldi, chi investe su queste piattaforme. Però c'è un aspetto positivo, che queste piattaforme in pratica non hanno il rischio su di sé. In questi giorni vediamo banche che cadono da tutte le parti. Potrebbe succedere la stessa cosa a una di queste piattaforme? Beh, dobbiamo considerare che appunto queste piattaforme sono profondamente diverse dalle banche, cioè queste piattaforme permettono solo di mettere in contatto persone che vogliono prestare dei soldi con persone che vogliono ricevere dei soldi, quindi non assumono il rischio, quindi in teoria non dovrebbero cadere nella possibilità di fallimento, e anche qualora dovessero cadere nella possibilità di fallimento per altre motivazioni, non è che chi ha prestato dei soldi vuol dire li perde, perché i contratti fa privati restano in atto e nessuno può scappare con i soldi perché la piattaforma non ce li ha, a differenza di una banca in pancia propria. E Esattamente, esattamente. Consideriamo che sono cose profondamente diverse dall'essere una banca e quindi probabilmente anche le banche fanno tipologie di prestiti e le piattaforme di P2P lending fanno tutt'altri prestiti. Quindi non è detto neanche che vadano le piattaforme di P2P lending vadano a erodere un mercato di quello bancario, anzi. Grazie Valeria Portale, come sempre, per la chiarezza. Grazie a te, grazie a tutti. Si chiude qui la settimana speciale di Smart City dedicata alla fintech, anche se di certo l'argomento non si esaurisce qui. Vi ricordo che lo speciale fintech è anche sul web, sul sito di Radio 24, dove trovate le puntate di questa settimana, ma anche tanti approfondimenti dedicati a temi che non abbiamo avuto fisicamente il tempo di trattare in questi 5 giorni, come quello degli smart contract, di cui pure ci siamo occupati di recente. Appuntamento per il prossimo speciale il 13 marzo, mentre da lunedì torna la programmazione ordinaria di Smart City, appuntamento come sempre alle 20:50 qui su Radio 24. Buon fine settimana!